Allora, pensavo come introduzione a questi giorni di ritiro, come prima meditazione, penso che ci viene molto bene soffermarci di nuovo sul Vangelo di questa festa, di questa solennità della Madre di Dio. Così facciamo in modo che la Madonna, fin dall'inizio, ci accompagni in questo tempo di grazia. Possiamo intendere il tempo di grazia tutto l'anno 2016 che comincia. Possiamo intendere tutto il tempo del Natale che continua e per voi in modo particolare questi giorni. Di preghiera, di meditazione, di ascolto della parola di Dio, di riflessione, di contemplazione. Il Vangelo che oggi si legge è lo stesso della messa dell'aurora del Natale, una messa dell'aurora che non frequentissimamente noi diciamo, celebriamo, forse noi che siamo qua. E che però è proprio, ecco, il Vangelo che parla, lo rileggiamo così, facciamo prima. Appena gli angeli si furono allontanati da loro, dai pastori, verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. E poi anche oggi leggevamo nella messa della Madre di Dio del 1° gennaio, quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Allora, questo Vangelo, questo episodio che è totalmente natalizio, è subito dopo l'aver dato alla luce il bambino Gesù, e mi fa pensare a tre atteggiamenti di Maria e di Giuseppe, ma soprattutto di Maria perché è messa più in evidenza, che sono questi. Da un lato Maria ascolta i pastori che sono venuti a trovarla, a trovare il bambino, lei e Giuseppe, li ascolta con molto interesse rispetto a quello che loro stanno raccontando, quello che stanno dicendo. In secondo luogo si stupisce e in terzo luogo custodisce tutte queste cose e le medita nel suo cuore. Potremmo dire che sono quattro, no? Se volete, quattro azioni di Maria, forse anche di più, ma che il Vangelo mette in evidenza. Ascolta, si stupisce insieme con Giuseppe e forse con qualcun altro, custodisce, medita tutto quello che i pastori raccontano. Voi già comprendete che questo potrebbe essere un bellissimo modo di vivere questi giorni di raccoglimento e di preghiera. E possiamo chiedere alla Madonna che sia così. Riuscire ad ascoltare le parole che il Signore ci dice, comunque ce le dice, attraverso chiunque ce le possa dire, stupirci del loro contenuto, custodirle, meditarle nel nostro cuore. E poi sicuramente porteranno anche a dei propositi, a un'azione, no? E stavo pensando che, ecco, all'ascolto, adesso fermiamoci un po' su questo ascolto di Maria e di Giuseppe, dei pastori che arrivano, è un ascolto attento di fronte a persone sconosciute a loro, sono in una terra nuova per loro, anche se Giuseppe è di quella casa, non mi immagino che non si conoscessero prima. Quindi loro ascoltano con interesse persone che non conoscono, persone che arrivano nella loro casa, probabilmente più una grotta o una stalla, in un luogo di fortuna, che arrivano durante la notte. È interessante questa apertura della famiglia di Nazareth. Noi tutte le volte che guardiamo questo presepe, normalmente lo costruiamo proprio con una casa aperta perché possiamo guardare dentro, non possiamo contemplare. E questo però ci dice di più di qualcosa che sicuramente era. Non sappiamo se appunto era proprio così aperta come noi la costruiamo nei nostri presepi, ma era aperta perché lasciano entrare questi pastori, pur essendo sconosciuti. E forse ci dice qualcosa dell'atteggiamento di Maria e di Giuseppe da prima. Non sono gelosi del bambino Gesù, non hanno paura, non hanno paura, e sono aperti ad ascoltare che cosa il Signore gli dice loro attraverso ciò che accade nella loro vita, qualcosa di imprevisto anche. E qualche giorno fa, anzi era proprio ieri, e passava da Milano Don Giuseppe Tanzellanitti, che alcuni di voi conoscono, professore di teologia fondamentale all'Università della Santa Croce, e lui ci ha raccontato che ha avuto la possibilità di parlare con Papa Francesco per un paio di minuti, perché fa parte, essendo lui anche astrofisico, come ecco laurea civile e anche professione prima di studiare teologia, fa parte della specola vaticana, di un gruppo di studiosi più allargato di quelli, rispetto a quelli che si dedicano a questi studi più immediatamente, e allora hanno fatto un incontro col Papa, erano 18 persone solo, e quindi ha potuto parlare ben a tu per tu ben 2 minuti con il Papa. E lui raccontava, dice che appunto l'ha colpito molto la capacità che il Papa ha di entrare subito in empatia con le persone che incontra. E a lui è successo questo, no? Che lui si è presentato, ha detto il suo nome, no? Sono Don Giuseppe Tanzellanitti, e subito il Papa ha detto: ma lei è parente di padre Tanzella? E lui ha detto: certo, è mio zio, cioè era mio zio, è fratello di mio padre. Ci ha spiegato che appunto suo zio era un gesuita che lavorava nella sede centrale dei gesuiti a Roma, ed è morto nel 1984. Quindi lui intanto l'ha colpito questa immediatezza, questo ricordo di una persona che in fondo è morta da tanti anni. Appena ha sentito il cognome ha subito pensato: ma lei è parente di padre Tanzella? E poi gli ha fatto un sacco di elogi di questo suo zio, era una buonissima persona che ci ha aiutato tanto, che aveva relazioni forse si occupava, se non erro, di Economato o qualcosa del genere, con noi dell'Argentina. Poi quando venivamo qua a Roma ci trattava sempre molto bene. E così sono corsi i primi 30 secondi dei 2 minuti. E poi, nell'altro minuto e mezzo, gli ha potuto raccontare quello che lui fa adesso, no? Quindi appunto quello che studia, la teologia fondamentale, insegna all'Università della Santa Croce, e poi ha voluto aggiungere che forse per quella sua caratteristica di avere quella conoscenza di fisica, di astrofisica che gli viene data dalla sua professione precedente, e gli è facile entrare in contatto con molti scienziati. E poi noi sappiamo che lui ha curato il dizionario Scienze e Fede, insomma, non so se gliel'ha citato comunque, e parlava di questi scienziati, del mondo della scienza, come di un mondo in cui queste persone hanno l'attitudine professionale a cercare la verità nelle loro scienze, no? Nelle loro singole discipline, e questo li rende per certi aspetti più sensibili ad aprirsi a conoscere la verità rivelata da Dio, e quindi che lui si dedica a questo volentieri. Allora il Papa Francesco a quel punto gli ha afferrato un braccio e gli ha detto qualcosa come: questa sì che è una bella periferia, eh? La periferia del mondo dei scienziati, della scienza, una periferia dove portare il Vangelo, dove portare l'Annunciazione. Infatti poi lui diceva che è tornato a casa sua molto contento, anche i suoi colleghi, ha detto: adesso io sappiate che ho questa periferia da curare, no? E me l'ha detto il Papa. Bene, per cui senz'altro il Papa ci dà un esempio di ascolto immediato e attento anche delle persone, cioè in qualche modo sconosciute, no? Che incontra. E io penso che, ecco, poi questo ascolto permette a Maria e a Giuseppe di stupirsi. Se ascoltano con molto interesse, poi si possono stupire. Certo, se uno non ascolta, se gli sfugge il contenuto di quello che si sta dicendo, di quello che quella persona dice, se noi continuiamo così con il nostro pensiero, con il nostro mondo interiore, possiamo perdere la possibilità di capire e quindi di stupirci di quello che sentiamo dire. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Dopo averlo visto, il bambino, i pastori, no? Tutti quelli riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Possiamo dire che Giuseppe e Maria sono molto interessati a sentire le cose che riguardano il bambino, cioè che riguardano Gesù. Anche noi siamo interessati, Gesù, a qualunque cosa ti riguarda. E in questi giorni vorremmo ascoltarti, ascoltare le cose che dicono di te le persone sante, la Sacra Scrittura, lo Spirito Santo. Ascoltare da te e ascoltare di te. Conoscerti di più, conoscerti meglio. Com'è bello ascoltare, ecco, non stancarci mai di ascoltare qualcosa che riguarda l'amore degli amori, no? E come viene chiamato il Signore, per esempio, da San José Maria, l'amore per eccellenza, no? L'amore del nostro cuore, l'amore che prende, non solo che muove il sole e le altre stelle, ma che prende il nostro cuore e a cui noi doniamo la nostra vita. Ascoltare di te, ascoltare da te, possiamo dire ascoltare da Maria e da Giuseppe quello che di te hanno da dire, anche noi ascoltare dei pastori. Poi qui il Vangelo dice questa frase misteriosa: tutti quelli che udivano si stupirono. Sicuramente tra tutti c'è Maria e Giuseppe, forse ci sono solo loro, oppure c'è qualcun altro. Si nascondono Maria e Giuseppe in questo tutti, ma è molto bello comprendere che loro, e anche capire, cercare di domandarsi che cosa Maria e Giuseppe vi ha fatto stupire, di che cosa vi siete stupiti, delle cose che vi hanno detto i pastori del bambino Gesù. Allora io ho pensato, ho cercato di fare un po' una piccola, semplice comparazione tra quello che Maria ha ascoltato dall'angelo, noi sappiamo dal Vangelo, no? L'annunciazione dell'angelo a Maria, poi quello che Giuseppe ha ascoltato dall'angelo in sogno, l'annunciazione a Giuseppe, quello che è narrato nel Vangelo di Matteo, per vedere che cosa di nuovo è stato detto, che cosa di diverso è stato detto dagli angeli ai pastori, che può essere questo l'elemento dello stupore. Ma forse, prima ancora, un elemento di stupore è il fatto, provate a pensarci, che il Signore Dio, Dio Padre, l'Altissimo, il padre di questo bimbo, lo Spirito Santo scenderà su di te, ti coprirà con la sua ombra e quindi nascerà questo figlio dell'Altissimo come frutto, no, di questa azione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo e il Padre pensano che per parlare a Maria, che è la madre di Dio, che per parlare a Giuseppe, che è lo sposo della madre di Dio, sono queste due persone splendide, super scelte, dal Signore preparate da tutta l'eternità, da tutte le genealogie loro, no? Che hanno preparato queste persone adatte ad essere la madre e colui che veniva considerato da tutti il padre di Gesù, lo sposo di Maria. Per parlare a loro non torna. Non era più semplice che gli angeli apparissero di nuovo a loro nella grotta, no? E dicessero: Maria, Giuseppe, coraggio, benissimo, vedete che la prima tappa è compiuta, adesso li incoraggiassero in qualche modo. E invece no, gli parlano attraverso dei pastori, che possiamo dire che non c'entrano niente, che poi sono incolti, che poi sono rozzi, che poi sono eccetera, no? Sapete, venivano considerati gli ultimi del popolo degli eletti perché non vivevano bene alcuni aspetti della legge, per esempio il riposo festivo, no? Il riposo del sabato. Quindi forse tu Maria, tu Giuseppe, vi stupite del fatto, di questa fantasia di Dio che per parlarci trova lui i modi in modi più diversi. Sei imprevedibile, Signore, quando ci vuoi parlare. Tu ci stupisci sempre, possiamo dire così? Se lo ascoltiamo, forse possiamo dire così. Se ascoltiamo quello che il Signore ci dice attraverso le vicende della nostra vita, ci possiamo stupire come Maria e come Giuseppe. E questo è forse, penso che sia il primo motivo dello stupore. Cioè, tu Signore, cioè questi pastori che non c'entrano, non sono né il padre né la madre di questo bambino, eppure loro sanno qualcosa che noi non sappiamo, noi, Maria e Giuseppe, che siamo i protagonisti di questo evento straordinario. E tu Signore ci parli attraverso questi poveri pastori, Primo motivo di stupore. Secondo motivo di stupore, ipotetico, voi potete trovarne altri, no? È che se i pastori, come penso, abbiano riferito quello che in sintesi il Vangelo ci racconta di quello che dicevano gli angeli, e gli angeli che cosa dicono a questi? L'angelo si presentò a loro, ai pastori, la gloria del Signore li avvolse di luce. E si furono presi da grande timore. Forse Maria e Giuseppe sono stupiti da questa luce. Nella loro annunciazione non c'è stata una particolare luce che noi sappiamo. Invece, siccome è notte, l'angelo appare, ma la gloria del Signore avvolge tutti i pastori nella luce. Cioè, il Signore sta facendo in questo momento qualcosa di straordinario. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete. Terzo motivo di stupore. In questo dice: guarda un po', Giuseppe, gli dice Maria. A me l'angelo ha detto: non temere, Maria. A te, Giuseppe, qualche tempo dopo ti ha detto: non temere, Giuseppe, di prendere con te Maria tua sposa, perché colui che è generato in te, in lei viene dallo Spirito Santo. Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Questo non temere, questo incitamento a non avere paura, viene detto anche al plurale, anche ai pastori. Quindi questo vuol dire che questa nascita di Gesù comporta una perdita della paura. La paura che ha preso Adamo ed Eva dopo il peccato originale. Quindi tu Gesù arrivi con la tua nascita di Gesù bambino, con la tua incarnazione. Questo è uno dei temi degli incoraggiamenti del Signore attraverso gli angeli a perdere la paura, a non avere paura, a non avere paura soprattutto di te. Non abbiate paura di Dio, no? Non abbiate paura della gloria del Signore, non abbiate paura degli angeli. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Forse si sorprendono, si stupiscono Maria e Giuseppe, che quella gioia che è loro è subito di tutti. O sarà, o è destinata subito ad essere di tanti, di tutti. Forse accade a Maria qualcosa di quello che, per esempio, ci ricordiamo è accaduto a San José Maria quando. Da giovane, quando presagiva la sua vocazione, diceva, più avanti, quando lo ricordava, diceva, nella sua lingua diceva: erano molti anni che io presagivo l'amore, no? Barruntava l'amore, diceva nella sua lingua. E poi qualche altra volta ha detto: io appunto intravedevo l'amore, presagivo l'amore. Ma non pensavo che sarebbe stato così grande. Non pensavo che fosse così grande. Quindi lo stupore di vedere questa misericordia di Dio. La Madonna ha già detto nel Magnificat, ha già detto la sua misericordia si stende su tutti quelli che lo temono. E qui si capisce che arriva la misericordia di Dio anche a coloro che non lo conoscono, anche a coloro, tutto il popolo, no? Anche coloro che sono un po' lontani da lui, e si stupiscono di vedere l'amore di Dio così grande che vuole arrivare a tutti. E poi forse un altro motivo di stupore è questo. Questo per voi è il segno, dicono i pastori, ci hanno detto gli angeli che avremmo trovato un bambino che sarebbe stato avvolto nelle fasce e adagiato in una mangiatoia. Allora, bambino nato in una notte, non è un segno particolarmente strano. Quando quel parroco austriaco 150 anni fa, che nella notte di Natale dovette fare nella neve tutto un cammino, c'era la luna, e per andare a battezzare un bambino appena nato, e gli venne in mente nel tornare verso la sua canonica prima della messa della notte, le parole di Stille Nacht, la poesia, no? Il testo. E poi lo passò al suo organista, e l'organista ebbe l'ispirazione di quella musica che è una delle più conosciute. E per molti anni fu solo un canto di parrocchia, poi dopo si diffuse, no? Era nato un bambino quella notte di Natale. Ma forse neanche io pensavo quando la notte di Natale pensavo anche alla mangiatoia, forse non. Sì, certo, dipende, perché a me viene in mente il mio nonno materno che scriveva nelle sue memorie che nacque in una stalla, perché nacque nell'inverno, era febbraio, nella zona a Carpacco sul Tagliamento, casa fredda del 1800, insomma, erotti. 90, non so, qualcosa. E allora la stalla era il luogo più caldo perché c'erano gli animali, forse non il più igienico in assoluto, ma allora insomma si faceva quello che si poteva. Eppure, quindi questo possiamo vedere il segno che Dio dà, è un segno tutto sommato normale, no? Tutto sommato normale, però certo è un segno di povertà, è un segno di provvisorietà, è segno del fatto che loro non hanno trovato posto in albergo e si sono messi in quell'alloggio di fortuna e dove potevano alloggiarlo? In una mangiatoia. Alla Madonna viene in mente questa idea, qui c'è della paglia pulita e lì starà caldo, lì starà tranquillo, morbido e poi. E lo mette lì. E allora lo stupore di capire da parte di Maria e di Giuseppe che quella cosa un po' difficile che hanno vissuto qualche ora prima, di quella paura di non trovare posto, quell'essere respinti. È duro essere respinti in un momento di bisogno, di difficoltà, in una notte, in quando c'è freddo, insomma, quando non si è a casa propria, quando si è profughi. Ebbene, tutto questo e il dovergli dare una mangiatoia invece di quella culla, che hanno dovuto lasciare a Nazareth e che probabilmente Giuseppe aveva preparato con le sue mani, con molta abilità. Tutte queste contrarietà, queste vicende della loro vita quotidiana sono qualcosa che Dio ha previsto, che tutti gli angeli hanno contemplato, addirittura la cantano ai pastori dicendo: guardate che questo è proprio un segno che vi farà riconoscere il vostro Salvatore. Allora, certo, Maria e Giuseppe si stupiscono, come questa vicenda della nostra vita così, così piccola, così, magari della quale un po' ci vergognavamo. Questo bimbo divino non gli possiamo dare niente di più che una mangiatoia. Eppure diventa una parola di Dio. Eh sì, certo che si stupiscono Maria e Giuseppe, e c'è da custodire queste cose, da meditarle nel cuore perché scoprono che Dio è presente in ogni piccolo risvolto della loro vicenda quotidiana. Tutto è da lui visto e previsto e utilizzato per la diffusione della buona notizia, della buona novella, che Dio è diventato uomo ed è venuto in mezzo a noi e che è il nostro Salvatore e che è un bambino e che, ecco, e che lo possono adorare. E forse anche si stupiscono Maria e Giuseppe perché poi alla fine è apparsa una moltitudine di angeli. A loro è apparso uno solo e gli ha parlato a livello personale, no? Nell'annuncio a Maria c'è un tu, parla a lei, parla di lei, sei piena di grazia, hai trovato grazia presso Dio, concepirai, darai alla luce un figlio. E poi parla del bambino, sarà figlio dell'Altissimo, regnerà per sempre. A Giuseppe lo stesso, lo incoraggia a prendere Maria, a prendere il bambino e salverà il suo popolo dai suoi peccati. A tutte e due gli parla del nome di Gesù, che significa Salvatore. Ma a Ai pastori non solo gli parla di tutto il popolo, l'angelo, ma poi fa venire tutti gli angeli. E quindi Maria e Giuseppe si stupiscono che questo evento così nascosto della loro vita è visto da tutti gli angeli del cielo e che la gioia che loro hanno nel cuore è per tutto il popolo e anche la pace del Signore viene a portare questo bambino perché Dio ama gli uomini e gli viene a portare la pace attraverso questo principe della pace, come viene chiamato l'Emanuele, Dio con noi, da Isaia. Allora io penso che, così come Maria custodisce nel cuore queste cose e le medita, cerca di comprenderle sempre di più, così anche noi possiamo cercare in questi giorni di ascoltare il Signore quello che Lui ci vuole dire e ce lo può dire anche attraverso i pastori in modo imprevedibile e imprevisto e dà luce a qualcosa di ordinario che accade nella nostra vita di ogni giorno, questa vita nostra ordinaria che è vista dagli angeli del cielo. E alla fine i pastori se ne vanno, anche loro molto contenti perché hanno visto, ma anche dice per quello che hanno udito e visto, udito dagli angeli, ma anche da Maria e da Giuseppe, che avranno detto qualcosa anche loro, per ospitalità, per affetto di relazione, per apertura di cuore. Gli hanno raccontato qualcosa del loro mistero. Felici di aver udito e visto, perché hanno pensato: ma questi uomini sono messi dentro al nostro mistero, allora noi gli raccontiamo, gli svegliamo qualcosa. E allora noi possiamo sperare, desiderare, chiedere a Maria Giuseppe che in questi giorni, forse anche proprio frequentando da vicino la capanna di Betlemme, la famiglia di Nazareth, noi possiamo ascoltare e vedere, ascoltare, stupirci e custodire nel cuore ciò che ci viene svelato, meditarlo per poi poter glorificare e lodare Dio, come fanno i pastori dopo che hanno visto Maria e Giuseppe e il bambino Gesù, che sono come un esempio di quello che è bene che sia la vita cristiana, no? Dopo aver contemplato le cose di Dio, le possiamo portare agli altri. Che Maria, Giuseppe e Gesù ci proteggano e ci guidino in questi giorni di preghiera.